com'è la situazione? Come sentite da queste urla? In questo momento la polizia si è schierata all'ingresso di Labae lungo via Santo Stefano e sta provando a accedere dal cancello principale e dalle porte laterali degli appartamenti occupati. All'interno dello spazio ci sono numerosi compagni e compagne e anche al di fuori del cancello è presente un presidio molto numeroso che in questo momento è seduto davanti al cancello e non ha assolutamente intenzione di spostarsi. In questo momento la polizia sta tentando di entrare, di sfondare con un ariete la porta e in questo momento il reparto celere invece davanti all'ingresso principale sta incominciando ad avvicinarsi per caricare. Ecco, voi appunto questa cosa è stata un po' improvvisa, alcuni di voi erano anche in altri luoghi insomma d'Italia e ve lo aspettavate, cioè nel senso com'è possibile? No, non ti so dire com'è possibile, so solo che è una cosa allucinante che all'interno dello spazio c'erano persone migranti che hanno già subito delle violenze, che dormivano in un dormitorio sociale, c'è un asilo, c'è una pizzeria, ci sono una moltitudine di progetti incredibili che rischiano di morire perché il reparto si schiera e vuole sgomberare la BA. Questo è un giorno tristissimo per la BA e resteremo sicuramente fino all'ultimo per evitare che venga sgomberato.